Allora, sì, ieri siamo stati in Piazza Maggiore, abbiamo fatto un presidio più o meno dalle 5 e poi siamo saliti in Consiglio Comunale, siamo entrati in un gruppetto di persone per esporre appunto quali sono le rivendicazioni del Comitato Mobasta rispetto al parco Mitilini Moneta Stefanini del Pilastro, dove dovrebbe essere costruito il Museo dei Bambini. Noi siamo contrari alla costruzione del museo all'interno del parco perché riteniamo che il parco non sia un'area edificabile, il parco è un bene comune e come tale deve essere considerato, perché, come l'hai detto tu prima, benissimo, il parco centrale del Pilastro, quindi è un punto proprio di socialità, di incontro, di ritrovo di tutti gli abitanti del Pilastro, dei bambini, ma anche delle persone adulte, ed è un luogo fondamentale. Non vogliamo consumo di suolo, che invece questo progetto prevede, nonostante il bando fosse a consumo suolo zero, ma questo progetto prevede la cementificazione di 1300 metri quadri in più rispetto a quanto previsto. Non vogliamo il taglio degli alberi e lo spostamento, alcuni devono essere trapiantati, diciamo quelli più piccoli, quattro grandi alberi che dovrebbero essere tagliati e nove mi sembra trapiantati. Tra l'altro ricordo che qui tra quei nove ce ne sono alcuni che sono stati piantati in compensazione per i lavori della caserma che sono stati fatti 2 anni fa e hanno appena attecchito quest'anno, quindi vediamo insomma se andranno avanti con questa idea che fine faranno. Vi hanno risposto qualcosa dagli altri piani? Allora, siamo riusciti a interrompere il consiglio, i consiglieri si sono avvicinati, hanno ascoltato quello che avevamo da dire. Quello che ci hanno chiesto la documentazione, ci hanno chiesto di mandargli materiali, come se insomma i materiali di questo progetto non fossero già sul sito del comune da tempo e ci hanno consigliato di seguire la via gerarchica, diciamo, e quindi di chiedere un appuntamento col sindaco e con l'assessore di riferimento. Vedremo. Sergio, invece, tu sei un po' la memoria storica qui all'interno del comitato rispetto al quartiere Rione Pilastro, perché la tua famiglia si è trasferita qui quando tu eri ancora bambino, quindi l'hai visto crescere in qualche modo. Ecco, il parco Mitilini Moneta Stefanini ha una storia, se non mi sbaglio. Sì, ha una storia che precede il suo nome attuale. È la storia di un'area allora praticamente di campagna, perché nel 66 con i primi insediamenti intorno si ha soltanto campagna o sterrata per fare passare i camion per il trasporto, i detriti o i materiali. Gli abitanti che hanno problemi lo stesso momento in cui arrivano formano un comitato inquilini e cominciano a guardare quelle che sono le caratteristiche e le prospettive del quartiere e si rendono conto che sulle carte del quartiere e del progetto è prevista un'enorme stecca di cemento. Abitazioni, uffici, servizi, che attraversa tutto il quartiere dal cuore attuale fino alla via San Donato. Si oppongono e con un'amministrazione sicuramente paternalista, ma sufficientemente intelligente da capire quali erano gli umori di una popolazione nuova e soprattutto che era un suo elettorato potenziale, si ottiene una variante al piano regolatore nel 69. Questa variante prevede che non si costruisca più dentro al parco, venga salvaguardato quell'intero polmone verde e gli edifici, le scuole, i servizi, gli ambulatori, altre abitazioni vengano fatte con altri criteri, per esempio le scuole sono basse, sono dislocate in alcune aree più limitrofe rispetto al cuore del quartiere e vengano recuperati nel tempo edifici storici come le case coloniche gialla e rossa che sono diventate senza consumo ulteriore di suolo e senza ulteriore cementificazione una biblioteca e un centro di servizi per i ragazzi e gli adolescenti. Questa è la base dalla quale partiamo e noi ci rifacciamo a quella storia. Spero che anche l'amministrazione sappia guardare alla storia della sua stessa istituzione. Grazie.